boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Oggi Kappa, come sai, parliamo di guerra, perché sì, si sa che ai bambini piace tanto giocare alla guerra ed è una cosa, un argomento. Sì, però parliamo da della guerra in Afghanistan, che è una guerra vera. Beh, vera, vera fino adesso, le cose stanno per cambiare, però. Perché? Sta a sentire. Allora, tutti sappiamo, anche tu, che i soldati italiani in Afghanistan volano su aerei disarmati. Sì. Hanno solo una mitragliatrice, non hanno bombe. No, non hanno le bombe. Dopo i recenti attentati si è discusso moltissimo tra i ministri, anche in Parlamento, se fosse il caso o meno di mettere le bombe su questi aerei. E il bambino ministro La Russa, lui vorrebbe. Eh beh. Io adesso, di fronte a quello che sta avvenendo, non me la sento più di assumere da solo questa decisione. Voglio che questa decisione di non usare le bombe, voglio che sia cambiata dalle commissioni parlamentari competenti. E anche il bambino ministro Frattini vorrebbe. È giusto che quelle bombe siano lì, pronte a colpire i terroristi che stanno uccidendo i nostri uomini? La mia risposta è chiara. Appunto, vorrebbero, solo che adesso da più parti è spuntata fuori la proposta che risolverebbe tutto: mandare in missione dei bombardieri telecomandati senza pilota, i cosiddetti droni. Droni. E in pratica funziona così: un pilota manovra una cloche finta da terra, sì, magari da una caserma italiana vicino a casa, così fa pure la pausa pranzo con sua moglie. Così facendo fa volare un aereo vero, carico di bombe vere, nei cieli veri dell'Afghanistan vero. È perfetto. Così almeno i soldati, dopo tanti anni, finalmente possono giocare alla guerra da veri bambini, ma nello stesso tempo causare vere distruzioni. Beh, è il sogno di una vita, Drago. Ma che dico di una vita? Di un'intera epoca. Ho capito, ma le vittime vere? Ma quali vittime? Si chiamano danni collaterali. Comandante Kappa, il radar da campo segnala una presenza invisibile a ore 12. Passano le 5 meno un quarto, tenente Drago. Comandante Kappa ha di nuovo bevuto. Che ha fatto, tenente Drago? E comunque non devo renderne conto a lei. Dicevo che a ore 12 potrebbero trovarsi i droni opalescenti di Krong. Maledizione, tenente Drago, presto, passiamo al piano C. Il piano C, tenente Drago. Ecco, io... Tenente Drago! Il piano C è quello che viene dopo il piano B! Ma io non so nemmeno quale fosse il piano B, comandante Kappa. Figuriamoci il piano C. Tenente Drago! Presto! Azioni l'identificatore termoreattivo! Agli ordini, comandante! Non funziona! Siamo in trappola! Non ha niente da temere, tenente Drago! Possiedo l'arma che ci salverà! Che cosa hai in mente, comandante? Azionerò personalmente la grande boda! Oh mio Dio! Ma è gigantesco! E non è nemmeno sulla tenti! Comandante Kappa, lei ha sempre la battuta pronta! Tenente Drago! Sulla tenti! Tu che sei stato? Sempre mio amico. Sempre al mio fianco. Sempre vicino. Ora che sei al fianco di un altro bambino, stai a sentire ciò che ti dico. Spero proprio che tu ti ritrovi in un bel banco di spine di rovi, sempre più stupido, sempre più stanco, con un orango compagno di banco, con 546 denti, tutti cariati, tutti ridenti, che tutto il giorno ti vuole baciare, con una puzza terribile in bocca. E se mi chiedi se puoi ritornare, io ti presento questa filastrocca, che ora finisce, dicendo così: te ne sei andato? Ora stai lì. E ora, bambini, ricreazione! Passa! Passa, dai! No, beh, ma Kappa! Kappa, devi venire qui, dobbiamo fare le interviste. Ma lasciami di giocare a calcio no, una volta. Lascia giocare i bambini, che arrivi tu si spaventano. Ma non è vero. Guarda, c'è già il bambino sono Albertino nell'angolo, guarda, poverino, sembra tutto. Ma sempre triste, sempre c'ha sempre le menate. Bambino Albertino, come va? Come va? Come al solito, mi girano le palle. Ecco, ma perché? Dai, rilassati, gioca, no? Gioca, l'hai detta proprio giusta. Ma quei comunisti dei miei genitori non mi lasciano giocare? Ma com'è possibile, dai? Ma no, non mi lasciano giocare a giochini elettronici. Vabbè, non è che non ti lasciano giocare, spiegati. Non vogliono che tu ti rimbambisca con la PlayStation tutto il giorno davanti alla televisione. Senti un po', i miei genitori la PlayStation non ci hanno mai giocato una volta. Eppure sono due rimbambiti. E come me lo spieghi? Vabbè, dai, su, bambino Bereguardo, non si parla così dei propri genitori. No, Bereguardo no, Bereguardo. No, Bereguardo non ci va. Comodo, c'è anche l'autostrada. Autostrada. Comunque, questi qui sono sempre lì a dirmi di giocare con la trottola, con le figure di carta. Le ritagli, ma no, è bello. Non mi lascio neanche guardare i cartoni della TV. Dai, Alberto, i tuoi genitori sono persone serie che vogliono crescere il loro bambino lontano da tutte le brutture di oggi. Fanno benissimo. Eh sì, perché loro pensano che si stava meglio quando si stava peggio. Sempre lì a dirmi, quando eravamo piccoli noi, non c'era questo, non c'era quest'altro, non c'era questo qui, eh? E beh, lo schifo, non c'era niente. Vabbè, era bello lo stesso quel mondo, bambino Albuquerque, New Mexico. Ma cosa adesso? Caro mio, bambino Albuquerque. Non vale, sì, no. Sì. La carne due volte al mese, l'acqua calda una volta alla settimana. Vacanze mai. Vabbè, forse. La Madonna, cioè, così mi fate venire il magone, no? Sì, fa venire sì, il magone. Però così. Effettivamente così, però non credo che fosse così i tuoi genitori. Ma dai. Sì, perché i comunisti piace quel mondo lì. Cioè, niente TV, niente merendine, niente prodotti delle multinazionali, niente giochini elettronici, niente di niente. Però io te l'abbiamo già detto, i comunisti non esistono più, quindi non fare sempre questo. E poi le vacanze negli agriturismi dove ti fanno lavorare? Ma no, non si può più, è un inferno. Vabbè, però dai, Albertino, adesso i soldati fanno la guerra via computer, mandano gli aerei senza pilota a bombardare i civili. Quindi è come se fosse un videogioco. Secondo me è giusto che i bambini invece ritornino a giocare, non so, appunto alla trottola, a correre dietro un pallone, fare quelle cose. Cosa ti dico? Senti, mi sembra che il tuo amico incominci a parlare come Suor Dentone. Ma guarda, ma chi lo dici? Lo so. Capo, adesso ti ci metti anche tu. Prova a pensare di essere il bambino Albertino, scusa, tutti gli altri bambini si divertono con i giochini elettronici e lui si presenta con una trottola. Vabbè, ma è così. Al giorno d'oggi è un trauma, Drago, è così. Hanno deciso così. Gli altri vanno a Charm. E io in provincia di Perugia ero per mille palle. Dai, povero Albertino, nemmeno a Charm. Sì, e poi io non posso vedere i cartoni in TV, ma loro hanno zero se lo guardano, Anni zero, ma però vabbè. Si guardano tutti i programmi più noiosi. Hanno zero, Ballarò, 8 e mezzo, L'ultima parola. Sono degli intellettuali. Ma io i cartoni non posso guardarli, E sapete perché? Perché? Perché loro dicono che mi fanno crescere male. Vabbè, basterebbe solo non crescere come loro. Vabbè, però adesso Albertino, calmati, c'è la ricreazione. Mi sembra che tutti gli altri bambini stiano giocando tranquilli, senza usare telefonini, iPad, senza guardare i cartoni animati. Quindi vai anche tu con loro, no? Ma come faccio ad andare? Vai! Ma se ci siete sempre qui voi due, non prendi maroni! Ha ragione, Drago, scusa, anche noi due la ricreazione non la facciamo mai. Sei sempre lì col microfono, vabbè, l'intervista, qui, fai perdere tempo al bambino Albertino, a noi. Vabbè, dai, facciamo una cosa, bambino Alberto, molliamo qui Drago e andiamo a giocare noi due. Sì, dai, ma cosa? Non so, io qui ho una trottola. Ma no, la trottola! Mi viene il magone! Vabbè, Drago vuole così, la trottola. Sai dove puoi mettere sta Drago, la trottola? Sì, però prima giocateci un po', no? E ci mancherebbe altro che ci giochiamo dopo. E ora, bambini, e la sonnellino. Dai, su, da bravo, ti metti giù, adesso si dorme. Che palle, ma non ho sonno. Conta le pecore. Ma se uno non ha sonno, non è contando le pecore che se lo fa venire. Vabbè, dai, si è sempre fatto così, K. Con me funziona. Cioè, tu ti metti lì davvero, chiudi gli occhi e conti le pecorelle immaginarie. Sì, vabbè, dai, pecore, capre, zebre. Ma come zebre? Va bene tutto, no? Zebra. Basta che si muovano, che saltino. Vabbè, con me non funziona. Vabbè, dai, adesso basta parlare, adesso voglio dormire, dai. Però per colpa tua adesso mi è passato il sonno. Mi spiace. Ti canto una ninna nanna. No, vabbè, a me non fanno niente le ninna nanne. Devo mettermi lì a contare ninna le ninna nanne o ninne nanne? No, ninne nanna. Ma cosa? Le ninne nanna? Le ninna nanna, forse. Cosa dici? Vabbè, cosa vuoi che mi faccia adesso, una ninna nanna? Sì, ti metti qua coricato con la tua mascherina per proteggerti dalla luce, sai, quella anche degli aerei. Io ti canto una bella ninna nanna. La ninna nanna è il metodo più antico per addormentarsi, piccolo Drago. Però tu non sei la mia mamma. No, io sono il lupo. Il lupo nero. Ma cosa fai? Adesso sei diventata tu una pecora. Sì. A furia di contarle. Torniamo domani e mandate i vostri droni a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.